Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. Siamo in onda regolarmente anche oggi, è festa il 25 aprile, ma i mercati sono regolarmente aperti. A Piazza Affari oggi vedo una fibrillazione che non vedevamo da un po', chissà se proprio anche grazie alla festività di oggi che c'è questo fermento, questo movimento e questo recupero per il FTSE MIB, per il principale paniere della borsa italiana, che segna adesso più 2,80%, questo per darvi proprio anche concretamente l'idea della nostra diretta. Mercati aperti, dicevamo, o anche chiaramente nel resto d'Europa, che non sono interessati alla nostra festività, mercati che non sono interessati alla nostra festività, ma che tutti segnano ugualmente un buon recupero. Mi viene un po' da sorridere stamattina, perché l'ultima volta che ci siamo occupati del tema che vi proporremo oggi era il 2 giugno dello scorso anno, e sembra che davvero ci abbiamo preso gusto a rovinare le vacanze ai signori che sono i miei ospiti di questa mattina, almeno di uno, e adesso vi spiego perché. Di cosa parliamo questa mattina? Parliamo di social lending, lo diciamo in inglese una volta e basta, poi vi prometto che utilizzeremo per tutta la trasmissione la terminologia italiana, la traduzione italiana, che è semplice: prestito sociale, prestito tra privati. Del tema ci siamo occupati altre volte in passato, ve lo ricorderete, perché peraltro aveva anche appassionato molti di voi, e quando si era fatto conoscere questo mondo nel nostro paese per iniziativa di due piattaforme di intermediazione, Zopa e Buber, la cui attività era stata poi interrotta per decisione della Banca d'Italia. Eppure questo modello di prestito aveva riscosso grande consenso da parte di tutti i fruitori. Oggi ritorniamo sull'argomento perché ci sono delle novità. L'imprenditore fondatore di Zope è tornato in pista con un'altra società che si chiama Smartica, mentre in questa fase di assenza, diciamo così, dei primi nati in questo campo, il settore è stato in qualche modo presidiato da un'altra società che si chiama Prestiamoci. Quindi noi oggi vi racconteremo, grazie agli attori appunto di questo settore, che cos'è il prestito tra privati, chi offre denaro, chi lo chiede, che vantaggio ha il prestatore, che condizioni vengono applicate al richiedente, che importi vengono chiesti, insomma come funzionano queste piattaforme. Bentornato Maurizio Sella, amministratore delegato di Smartica SPA, People to People Credit, ho detto tutto correttamente, il nome della nuova azienda è questo. Esattamente. La vedo, sì, con Smartica, un bel sorriso questa volta, l'ultima volta non era così. Esattamente, no, siamo felici di essere tornati. Sono passati, come abbiamo scritto sul nostro blog, 2 anni, 4 mesi e 7 giorni. Adesso siamo tornati, siamo un istituto di pagamento, siamo vigilati da Banca d'Italia. Quindi siamo molto felici veramente di essere qua, grazie dell'invito. No, grazie a voi. Tra l'altro, quando ho invitato Maurizio Sella per chiedergli appunto di venirci a raccontare intanto che cosa è successo in tutto questo periodo di tempo e in che cosa consiste la nuova iniziativa, lui in maniera anche divertita mi ha detto: ma sì, il 25 aprile festeggiamo la liberazione del social lending in Italia. Buongiorno e bentornato anche a Mariano Carrozzi, amministratore delegato di Prestiamoci.it, bentornato. Buongiorno. Allora, naturalmente per tutte le curiosità di voi ascoltatori potete utilizzare, visto che oggi siamo in diretta, potete chiamarci anche oggi. Se siete tranquilli a casa, ci state ascoltando in radio, chiamateci all'800240024 oppure scriveteci al 349-238-6666 al nostro indirizzo di posta, che è salvadanaio@radio24.it, e potete andare anche su Facebook, dove siamo al profilo salvadanaio-radio24. Sulla borsa non vorrei soffermarmi più di tanto, ma in ogni caso, come già spiegato nel giornale radio, abbiamo un buon rialzo oggi. Non cantiamo vittoria prima che sia non cantiamo vittoria troppo presto, perché abbiamo visto già spesso giornate come queste poi, come dire, cambiare rapidamente, repentinamente, non appena magari arriva qualche notizia così un po' disattesa magari dagli Stati Uniti. Comunque godiamoci questo più 2,85% di Milano, che si deve al forte recupero che stanno mettendo a segno i titoli del settore bancario dopo il lunedì nero e il recupero di ieri. Oggi il recupero prosegue, forse le borse tra ieri e oggi già stanno recuperando molto più di quanto hanno perso lunedì. più 6,90% per la Popolare di Milano, più 6,7% per Unicredit, Ubibanca più 6,5 punti, più 6 per Fiat Industrial, più 5 per il Banco Popolare, più 4,5 punti per Intesa San Paolo e Mediaset, più 4 per Monte dei Paschi, Atlantia, più 3,5 punti per Telecom e Salvatore Ferragamo, mentre in discesa abbiamo solo due titoli, uno è Prysmian che perde 1,5 punti, A2A meno 0,09%. Io però la borsa la voglio lasciare subito, oggi andiamo al tema che vogliamo approfondire, ritorniamo a far conoscere ai nostri ascoltatori che cos'è il social lending all'italiana e in che cosa consiste il prestito tra privati. Dopo circa 3 anni dalla chiusura di Zopa e dopo la nascita di altre iniziative simili in Italia, si ritorna a parlare di social lending. Di che cosa si tratta? Il social lending consiste nello scambiare denaro online, sotto forma di prestiti, utilizzando una piattaforma internet senza bisogno dell'intermediazione di banche o di società finanziarie. Si sviluppa infatti secondo il principio, tanto caro alla rete, del peer-to-peer, ovvero la condivisione di dati e conoscenze fra tutti gli utenti del web. In questo caso, ciò che viene condiviso non è una semplice informazione o un documento, ma è il denaro. Questo sistema di prestito fra privati è nato nel 2005 in Gran Bretagna e nel corso degli ultimi anni ha raggiunto significative porzioni del mercato del credito. Come funziona? Ci si iscrive come prestatori o come richiedenti. I richiedenti possono ottenere piccoli prestiti che vanno da 1.000 a 15.000 o 25.000 euro, rimborsabili dai 24 ai 48 mesi, con tassi che oscillano fra il 7% e il 10% circa. Dall'altra parte, i prestatori possono offrire somme da 100 a 50.000 euro e l'importo viene diviso equamente su 50 potenziali richiedenti, così da ridurre il rischio per chi investe il proprio denaro. In Italia esistono diverse piattaforme di questo tipo, come ad esempio Smartica oppure Prestiamoci. La prima sorge dalle ceneri di Zopa, che nacque nel 2008, ma fu bloccata nel 2009 dal Ministero dell'Economia, su indicazione della Banca d'Italia. Zopa, in poco più di un anno, permise a 5.000 persone di prestarsi denaro per oltre 7 milioni di euro. E adesso? Le piattaforme di prestito privato sono sempre più presenti nel nostro paese e sono pronte a raggiungere il più alto numero di persone. Saranno un'alternativa vincente rispetto ai tradizionali sistemi di credito presenti sul mercato? Bella domanda quella con la quale abbiamo chiuso la nostra scheda. Cercheremo di capirlo. Diciamo che questi soggetti non si pongono sul mercato con l'obiettivo di sostituirsi alle banche, anche se c'è da dire che in questo frangente forse lo stanno facendo, dato che le banche continuano a tenere le porte chiuse a molte persone che necessitano, soprattutto alle piccole imprese, alle imprese appunto che necessiterebbero di credito ulteriore per andare avanti, per mandare avanti l'azienda, per fare ulteriori investimenti. Questo peraltro io lo segnalo già, è anche il grande tema al centro dell'iniziativa di Radio 24, Disperati Mai. Come sapete, stiamo raccogliendo a questo indirizzo di posta elettronica disperatimai@radio24.it le testimonianze delle persone che stanno vivendo situazioni di difficoltà molto forte. Ci siamo sensibilizzati sull'argomento dopo aver notato, come hanno fatto tutti, il numero crescente di persone che si tolgono la vita perché non riescono più a gestire la difficoltà dell'azienda, le difficoltà nel mondo del lavoro. Noi venerdì avremo questa grande iniziativa, quasi tutto il palinsesto di Radio 24 concentrato su queste testimonianze, le leggeremo, le commenteremo, ogni trasmissione di Radio 24 sarà declinata alla propria maniera intorno a questo tema, ce ne occuperemo anche noi di Salva Danaio parlando appunto del credito che è mancato e di quali alternative anche i piccoli imprenditori hanno trovato in questo periodo quando la banca diceva no. Poi chiederò un commento su questo anche ai nostri interlocutori di oggi, prima di tutto però facciamo parlare loro di quello di cui si occupano ogni giorno, cioè l'attività della propria azienda, cominciando subito con Maurizio Sella, oggi amministratore delegato di Smartica, in passato amministratore delegato di Zopa, che era in qualche maniera la filiale italiana del colosso britannico del social lending Zopa UK, e insomma un'iniziativa che era andata molto bene, aveva ritrovato grande consenso, però poi magari raccontiamo brevemente Sella la cronistoria di quella triste vicenda. Banca d'Italia vi disse no ad un certo punto perché non rispondeva alla vostra attività a determinati requisiti, fu davvero una questione di parametri formali sostanzialmente la chiusura di Zopa in Italia. Diciamo che dopo la chiusura, io parlerei più che altro dalla chiusura in avanti, che mi sembra forse più interessante. Dopo la chiusura noi abbiamo lavorato con Banca d'Italia per trovare una soluzione a questo fenomeno del social lending. Scusate, ed effettivamente ci è venuta in soccorso quella che è la direttiva europea sugli istituti di pagamento, che era già stata, diciamo, a livello europeo approvata nel novembre del 2007 e recepita in Italia nel febbraio del 2010. Quindi da quel momento abbiamo discusso, abbiamo fatto una domanda e abbiamo lavorato, devo dire, molto strettamente con Banca d'Italia per trovare questa soluzione e finalmente è arrivata la licenza come istituto di pagamento. Questo credo che sia molto importante, perché istituto di pagamento vuol dire essere una società vigilata, vuol dire avere tutti i presidi di controllo che sono tipici delle società vigilate e quindi credo che ci siano delle tutele molto forti anche per chi partecipa a questa piattaforma. Cosa abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo? Abbiamo gestito... Intanto ho mantenuto la fedeltà di tutti coloro che si erano, come dire, associati alla vostra iniziativa all'inizio. Esattamente, vi assicuro che non è stato facile, perché l'azienda è rimasta in piedi, abbiamo cambiato nome, noi eravamo un franchise di Zoppa UK, ma una società completamente indipendente, qui siamo diventati smartica.it, abbiamo lavorato su questo cambio di nome. Smartica con la K, così almeno se qualora qualcuno la volesse andare a cercare lo diciamo da subito. Esatto, abbiamo gestito i nostri 1200 prestiti, erano circa 7.200.000 euro, oggi ci sono circa 800.000 residui, siamo aperti da soltanto un mese, abbiamo già erogato 200.000 euro, quindi diciamo gestiamo un pacchetto prestiti in questo momento di circa 1 milione di euro, abbiamo 40.000 iscritti al sito, hanno risposto tutti molto positivamente al nostro rientro, siamo contenti e credo che il timing sia... il momento storico sia estremamente interessante per attività come le nostre. E infatti poi approfondiremo questo tema. Mariano Carozzi invece, prestiamoci.it, adesso la provoco subito, ha approfittato di questo momento di assenza di Zoppa in questo anno e mezzo, ha colmato una lacuna, insomma avete magari c'è stato anche qualcuno che vi ha chiesto, ma insomma c'erano anche altri attori che operavano in questo settore, che cosa è successo, non è che capiterà anche a voi, avete beneficiato di questa condizione, insomma, di difficoltà di Zoppa in passato? Oggi Smartica. No, abbiamo avuto un danno dal fatto che Zoppa è stata chiusa, perché l'idea è venuta più o meno in contemporanea, loro sono stati più bravi, più veloci, sono partiti con Zoppa, io stavo pensando a trovare una declinazione italiana, noi ci chiamiamo Prestiamoci, perché proprio abbiamo provato a trovare un modo italiano di fare una cosa che è un fenomeno nel mondo, che è un fenomeno di grande successo. Come potrebbe essere in inglese lending each other? Non so adesso, ma non piace ai nostri ascoltatori che utilizziamo termini in inglese, ma così era un mio pensiero. Quindi quando è stata chiusa Zoppa e nel frattempo è stato aperto Prestiamoci, per tanto tempo la gente si è chiesto, vabbè, hanno chiuso loro che arrivavano con una struttura e storie dietro, voi vi chiudono domani. Certo, in realtà, il gufo addosso. Fortunatamente noi siamo ancora qua e loro l'hanno riaperto, quindi finalmente c'è un mercato per una cosa che nel mondo è veramente un trend di grandissimo successo, perché siamo convenienti per i prestatori, siamo interessanti per i richiedenti. Siete anche trasparenti? Perché siamo assolutamente questa è una condizione fondamentale che probabilmente i fruitori chiedono. Il nostro motto è totale allineamento di interessi. La differenza fra noi e Smartica è che noi siamo comunque vigilati, siamo comunque controllati dalla Banca d'Italia, però in ogni finanziamento mettiamo anche un po' di soldi, in modo tale che il prestatore percepisce che noi ci abbiamo tutto da perdere se diamo i soldi a persone che non meritano, il richiedente capisce che c'è un controllo particolarmente interessato, che è sostanziale in quanto la società finanziaria entra in ogni finanziamento. Senta, glielo chiedo subito, poi lo chiedo anche a Maurizio Sella, naturalmente anche per quella che è l'esperienza vissuta in questo periodo in cui ha lavorato per ricostituire la società, ma anche in quello, mi interessa capire anche in quest'ultimo mese che cosa è successo, perché pare che nonostante le banche abbiano tanto denaro da elargire, perché la Banca Centrale Europea comunque ne ha concesso loro anche ad un tasso veramente risibile, queste famose aste straordinarie all'1% di interesse, però a quanto pare ancora il trasferimento presso l'economia reale non sta avvenendo di credito. Vi chiedo se sta arrivando anche a voi questo segnale di difficoltà, ci sono le persone che si rivolgono a voi perché il piccolo prestito viene negato in banco presso i canali tradizionali. Carozzi, comincio con Prestiamoci. Allora, sicuramente la cosa interessante è che si stanno affacciando al nostro mondo persone che non hanno mai avuto il problema di chiedere un finanziamento. Questo è il grande cambiamento. Non è il problema di chi era in una zona grigia, che poteva chiedere, magari pagava di più, era simpatico, antipatico, doveva girare 6 banche per avere un finanziamento. Oggi sta venendo da noi persone che una volta venivano chiamate dalla banca che gli offriva una carta di credito, profili di rischio di credito bassissimi, il classico padre di famiglia che lavora, che ha la moglie che lavora, che deve cambiare 2 elettrodomestici, deve farlo a rate, ma le cure mediche e dentistiche sono la cosa, perché sull'elettrodomestico trovi magari sì, il dealer che, ma la cura medica, la cosa inaspettata, per cui hai bisogno la del macchina usata personale, certo, oppure il piccolo artigiano, il trattorino per il motocoltivatore, 3 ragazzi che aprono un ristorante perché non trovano lavoro nel locale che aveva la nonna. Questo è il credito reale che ci viene chiesto, ed è un credito reale di importi molto piccoli, di persone molto per bene, tant'è che siamo partiti da un primo mercato a bassissimo rischio, ne abbiamo dovuto mettere vicino un altro sempre a basso rischio, ma con persone che non chiedevano soldi fino all'altro ieri, e ne stiamo aprendo, ne abbiamo aperto a gennaio un terzo per persone che hanno già dei finanziamenti, che li pagano, ma non riescono ad averne uno nuovo per un'esigenza che nasce, anche se sono in grado di pagare la somma delle rate. Maurizio Sella, il suo giudizio invece su questo credit crunch perdurante, perché poi ogni tanto qualcuno si alza e dice sì, effettivamente corriamo il rischio di credit crunch nel nostro paese, invece ormai la restrizione del credito è un fenomeno conclamato in Italia come in tanti altri paesi, ma da noi è stata veramente dura. Voi come lo trasferite nella vostra attività in qualche maniera? Concordo pienamente, diciamo, analizzando i nostri dati storici rispetto al nostro, anche se solo mese di attività, tra l'altro un mese dove abbiamo avuto comunque 500 richieste, abbiamo erogato 40 di prestiti eccetera, che proprio la qualità del credito, la qualità dei richiedenti effettivamente è migliorata. Concordo quindi sul fatto che sono venuti da noi persone che sicuramente sono tra virgolette bancabili, che potrebbero ottenere da banche finanziarie senza problemi finanziamenti. Evidentemente le banche non prestano, lo sappiamo bene, e allo stesso tempo c'è anche un interesse a mettere soldi in questa attività, perché gli interessi sono molto interessanti, no? Diciamo che orientativamente si viaggia intorno a un, io direi un 5% netto, diciamo un 7% lordo, ci sono da considerare. Quasi come il BTP, insomma, sul mercato secondario, un po' meno. sì, diciamo più del BTP sicuramente nella parte corta, diciamo, della curva. A 10 anni probabilmente si ottengono gli stessi rendimenti. Forse è meno volatile il social lending, i prestiti tra privati, chiedo scusa, piuttosto che ormai investire in quelli che erano considerati sicuri BTP. Benissimo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, oggi in diretta regolarmente nella giornata del 25 aprile. Celebriamo, come scherzosamente diceva uno dei nostri ospiti questa mattina, ormai questa battuta me la venderò per mesi, festeggiamo la liberazione del social lending, che era molto libero, ha avuto un intoppo questo meccanismo economico del prestito appunto tra privati per una questione legata ad autorizzazione appunto di Banca d'Italia. Oggi questa società, della quale abbiamo tante volte parlato a Salva Danaio, Zopa, che è stata chiusa per 2 anni abbondanti, ha avuto l'autorizzazione a ritornare ad operare nel nostro paese, è diventata istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia. Le ceneri di Zopa sono oggi invece state raccolte dalla nuova società che si chiama Smartica, l'amministratore delegato è sempre Maurizio Sella, e noi oggi, prendendo a pretesto questa novità di cronaca finanziaria, abbiamo avuto l'idea di riparlare di social lending, di prestito tra privati, l'esperienza americana ed anglosassone molto fortunata, la questione italiana che ha avuto invece una storia più recente e per certi versi un po' più sfortunata, che adesso invece sta riprendendo piede, anche perché per la verità tutti i fruitori ne erano stati assolutamente soddisfatti. Però, per non voler fare per forza lo spottone a questo settore, perché sennò sembreranno che mi abbiate pagato, non so, Sella e Carozzi questa mattina per raccontare il meglio di voi, cerchiamo di rispondere anche alla perplessità, alle domande dei nostri ascoltatori e capire proprio poi il dietro le quinte del funzionamento appunto del prestito tra privati. Intanto cominciamo con la domanda di Mirko da Milano. Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, volevo prima di tutto fare dei complimenti al dottor Sella proprio per la lungimiranza e la tenacia soprattutto. Poi addirittura come produrre una domanda di lavoro per il suo progetto. E poi, cioè, vuole andare a lavorare con lui, Mirko? Sì, ah, ecco. Credo, anzi sono contentissimo che questo progetto sia rinato, insomma, diciamo, perché effettivamente l'economia italiana si basa su una piccolissima impresa, come tutti sanno, e di conseguenza lo sviluppo di questo progetto e il sostenere comunque la piccola impresa effettivamente potrebbe essere il progetto che effettivamente potrebbe continuare a, a migliorare sicuramente l'economia. Mirko, del ci fa piacere che ci ha dato anche questa declinazione all'argomento di questa mattina, insomma anche come opportunità imprenditoriale la vede il nostro ascoltatore. Bene, aveva anche una domanda sul funzionamento del meccanismo di prestito tra privati? Certo, allora se era possibile inquadrarlo come un mercato obbligazionario chiaramente della piccola impresa e quindi se come obbligazione l'emittente era comunque garante, voglio dire, in solido verso il prestito e se c'era comunque una sorta di valutazione, una sorta di rating comunque che in questo caso qua il gruppo Banca Sella poteva essere, voglio dire, allora, necessario. Sì. Maurizio Sella non è il Sella di Banca Sella, è più vicino all'inizio, forse ma voi all'inizio prestiamoci, però eravate legati all'attività Banca di Banca Sella. È la nostra banca depositaria. Ah, ecco, però non è che sono loro che vi erogano il denaro che poi va, ecco, no. Poi spieghiamo anche questa relazione. Detto questo, il Maurizio Sella di questa mattina, Mirko, non è il Sella di Banca Sella. Chissà quante volte avranno fatto questa confusione, però magari abbiamo l'occasione anche per chiarire, con tutto per carità. Sì, no, assolutamente, siamo dei cugini, facciamo parte della stessa famiglia. Io non ho sempre intrapreso altre attività, non ho azioni di Banca Sella, quindi non c'entro nulla. Condividiamo questo nome, siamo semplicemente cugini, ci vogliamo bene, diciamo. Sì, sì. Primo, seconda domanda invece per l'ascoltatore che è interessato anche al lato, come dire, imprenditoriale, quindi avete delle offerte di lavoro? Diciamo che se il business cresce come prevediamo, chiaramente siamo alla ricerca sempre di risorse finanziarie. Considerate, noi eravamo 12 persone, siamo riusciti a tenere in piedi la struttura, abbiamo pagato gli stipendi per 2 anni e mezzo e tutto il resto, quindi è stato un grosso sforzo imprenditoriale, devo dire. E siamo ripartiti, abbiamo dei nuovi soci, io sono ovviamente socio fondatore, nonché attualmente socio e amministratore delegato, però voglio dire, se il business cresce, cresceremo anche con lo staff sicuramente, quindi ci interessa e grazie per i complimenti. L'altra domanda che invece ha fatto l'ascoltatore: allora, se io acquisto un titolo di Stato, naturalmente i rischi che corro oggi sono tanti, sono soprattutto di mercato, ma naturalmente c'è anche il rischio emittente che il paese al quale affido i miei soldi chiaramente fallisca. Funziona lo stesso anche per Smartica, quindi il prestatore, colui che presta denaro a voi per poterlo poi erogare, creare liquidità da erogare a chi lo chiede, corre lo stesso rischio, Sella? Ma diciamo che innanzitutto il prestatore presta direttamente ai richiedenti attraverso la nostra piattaforma, quindi noi siamo degli intermediari di pagamenti. Come funziona? Come facciamo a frazionare il rischio? Diciamo che la piattaforma fraziona in automatico il denaro che viene messo a disposizione dei prestatori tra almeno 50 diverse controparti richiedenti prestito. Quindi questo è un primo aspetto chiaramente di frazionamento del rischio, quindi non si rischia mai più del 2%. Frazionamento del rischio nel mondo degli investimenti e la diversificazione, quindi in qualche maniera anche lì funziona nello stesso modo. Voglio dire, è abbastanza simile. Poi un'altra cosa che noi applichiamo: quando una persona presta, la piattaforma gli suggerisce tendenzialmente un tasso di interesse, a questo viene aggiunto a sua tutela il margine, diciamo, che va nella media di circa 2,5%, che è il tasso di insolvenza atteso. Quindi se un signore dice io voglio prestare il mio denaro a 4, in realtà viene prestato al 6,5 al richiedente prestito. Nel caso in cui il richiedente ripagasse, diciamo, viene il 6,5 viene pagato interamente al prestatore. Nel caso ci fossero delle insolvenze, si va ad erodere questo margine che noi abbiamo previsto. Quindi diciamo che noi assegniamo, cioè diciamo che al prestatore suggeriamo di indicare un tasso obiettivo e cerchiamo di assicurare questo prestando ai richiedenti con un piccolo margine in più che non prendiamo noi, ma semplicemente che paga il richiedente, perché c'è ovviamente un rischio di credito connesso. Carozzi, invece spieghiamo la relazione con la banca depositaria. Tra l'altro voi ce l'avete e Smartica no? Poi c'è una banca depositaria, ecco. Nel senso che è una banca nazionale, ma diciamo che l'istituto di pagamento formalmente come funziona? Che i singoli prestatori aprono un conto di pagamento, quindi firmano una contrattazione come se aprissero un conto, diciamo, presso una banca, un SGR. Che nulla ha a che fare con la banca depositaria. Nulla a che fare, no. Benissimo. Carozzi, per quello che riguarda invece il funzionamento appunto del prestito tra privati sulla vostra piattaforma, credo che le modalità siano le medesime. Tra l'altro, a proposito dei tassi applicati, siccome abbiamo dei piccoli prestiti, in genere il credito al consumo ha sempre dei tassi un po' fastidiosamente alti, perché ci spiegano che causa le istruttorie percentualmente pesano di più su piccoli importi. Ecco, sulle piattaforme di social lending. Allora, non è vero che causa delle istruttorie. Il credito al consumo costa molto, perché costa molto la rete fisica. in genere il credito consumo è erogato presso un negozio, il negozio che ti vende il computer ti vende anche il mutuo, ci guadagna qualcosa, quindi prende una percentuale. Quindi tu compri due cose, paghi due cose, noi ti vendiamo solo il mutuo, quindi il tasso è più basso, il nostro tasso più alto è più basso della media di tassi rilevati dalla Banca d'Italia. E questo è un primo punto. Anche noi abbiamo un sistema di conti, anzi noi lo abbiamo da sempre, noi siamo nati così, e quindi Smartica assomiglia un pochettino più al nostro modello in questo momento. In realtà il nostro non è un conto di pagamento, ma è un vero e proprio conto deposito su cui non c'è nessun costo, ma c'è un piccolo rendimento che è l'1,5% oggi come oggi. Quindi il nostro prestatore apre un conto deposito, firma un contratto sostanzialmente simile al contratto che viene firmato dall'istituto di pagamento, con questo conto lui potrà operare sulla piattaforma attraverso un internet banking dedicato, che è la nostra piattaforma. Il conto di deposito, chiamiamolo così tra virgolette, che non è esattamente identico a quello che fanno le grandi banche che stanno veicolando adesso tante offerte commerciali, poi magari andiamo un po' più nel dettaglio delle differenze, ma deve essere aperto sia dal potenziale prestatore che dal potenziale richiedente solo del prestito. Dal potenziale prestatore. Ah, ecco. Mentre invece il richiedente riceverà i soldi sul suo conto presso la sua banca a condizione che lo abbia da un certo periodo di tempo, cioè se tu vai, apri il conto in banca e domani chiedi i soldi, prestiamoci, non te li diamo, non tanto perché sono i nostri soldi, perché il nostro meccanismo di scoring potrebbe scoprire che te li meriti, ma perché sono i soldi di altre persone, perché noi investiamo insieme alle altre persone. Quindi quanto tempo deve avere già? 6 mesi. Vabbè, che comunque è un tempo ragionevole, certo, infatti. Toglie di mezzo qualche opportunista. Ecco, tra l'altro molti ascoltatori sollevano anche proprio questo aspetto. Allora, vi leggo, adesso andiamo anche a Nicola dalla provincia di Milano. No, Nicola, le faccio fare la domanda perché la sua è simile a quella di un ascoltatore che ci ha scritto sul nostro indirizzo salvadanaio@radio24.it. Ci dica, Nicola, buongiorno e buon 25 aprile. Pronto? Sì. Sono a Milano, non la provincia, comunque aperta. Sempre pronto. Vabbè. Allora, il mio problema è questo. Io sono attualmente in mobilità, tra l'altro, quindi non ho un lavoro. Diciamo che ho avuto così una buona uscita, no? Diciamo una discreta buona uscita, e volevo sapere se potevo rischiare di investire questa buona uscita in questa attività. Tutto qua. Una cosa, diciamo, molto terra terra. Oppure se c'è un sito dove posso comunque avere maggiori dettagli in modo da leggere tutto con calma. Certo, Nicola, tra l'altro guardi, quello che io le posso suggerire, ma questa è proprio un'indicazione di buon senso, chiaramente per tutte le cose non facciamo, non mettiamo tutte le uova in un paniere. Se lei la vede come un'opportunità magari per poter far rendere qualcosa questa somma che ha a disposizione, non metta tutto lì, diversifichi al meglio il suo risparmio. Credo che questo però non abbia nulla a che fare con l'attività di social lending, che se mi avesse chiesto metto tutti i miei soldi adesso nel bot o nel BTP che vale ancora il 5,5% almeno il decennale, le avremmo detto appunto la stessa cosa. Ma credo che questa sia un'indicazione che sia Maurizio Sella che Mariano Carozzi mi possono dare. Detto questo, voi che cosa mi potete suggerire di dire a Nicola? Ma direi che condivido pienamente il suggerimento, ovviamente, di diversificare come tutte le attività. Diciamo che quindi una parte è proprio quello che vorrei dire, cioè sostanzialmente i prestiti tra privati dovranno rappresentare un'alternativa per chi vuole investire i propri risparmi. Quindi è una delle tante alternative. Ci sono i bot, ci sono le azioni, ci sono le obbligazioni societarie e tutto il resto, ci sono i conti deposito, ma c'è anche il prestiti tra persone. Considerate che da noi appunto è un fenomeno abbastanza recente, ma è di piccola dimensione per il momento, ma ormai negli Stati Uniti, in Inghilterra eccetera, considerate che la nostra ex franchisor Zoppa UK oggi ha il 2% del mercato dei prestiti personali in Inghilterra. Esistono società negli Stati Uniti, Lending Club, che hanno un portafoglio che è di 450 milioni di prestiti erogati. Insomma, voglio dire, ma noi siamo, esiste un altro sito in Germania anche che ha erogato credo una 50 milioni di euro. Piano piano stiamo arrivando. Ma Carozzi voleva aggiungere qualcosa? Sì, perché il sito in Germania si chiama Smava ed è un sito con cui noi siamo molto collegati, perché ha il 49% del nostro capitale. Ecco. E sono nostri partner e lavoriamo molto bene insieme, quindi prestiamoci Smava, condividono molte filosofie e anche qualche prodotto. Non ce lo... Scusa, no, avete fatto bene a ricordarlo, io non me lo ricordavo, per esempio. Allora, adesso dobbiamo andare a suggerimenti per chi è in viaggio. Vi lancio su questa provocazione di Fabrizio Fabrizio che ci scrive: sarebbe interessante chiedere agli ospiti come affrontano il problema dei mancati rimborsi. Come utente Zopa oggi Smartica, vi assicuro che è pesante, siamo intorno al 10% del prestato, Sella, quindi questa, anche questa è per lei, ma probabilmente forse anche un problema, insomma una circostanza che riguarda anche prestiamoci.it. Allora, cari amici miei del social lending, del prestito tra privati, come affrontate il problema dei mancati rimborsi? Io sono una vostra potenziale utente, un prestatore, insomma magari da domani dico: ma sì, voglio dare a queste comunità 5.000 euro, diversifico anche i miei risparmi, e però insomma qual è il rischio che corro? Che la comunità di richiedenti del credito appunto non faccia il suo dovere, non rimborsi quanto deve, quindi che anche la piattaforma di che tipo di carico si fa anche in relazione al rapporto con il prestatore? Mariano Carozzi, quanto ne risponde lei nei confronti miei? Prima di tutto, noi mettendoci anche dei nostri soldi abbiamo particolare attenzione alla qualità del credito. Poi noi abbiamo adottato una politica di piccoli passi e siamo cresciuti un po' più lentamente, però consolidando man mano un processo industriale. I dati che diceva Sella sono corretti, la nostra aspettativa oggi è che per svariati motivi 10% delle persone non pagano tempestivamente. Di queste la metà pagano con una telefonata, ma non pagano tempestivamente, sono un po' non pagano il giorno che arriva il RID, perché magari è arrivata la bolletta della luce, lo stipendio 10 giorni dopo. Beh, ma se arriva il RID magari comunque c'è il prelievo in automatico, oppure se hai i soldi, se magari sei un pochino in rosso, magari parziali, magari la banca, diciamo che fra banche in questo periodo c'è molta competitività, quindi c'è un tema di ritardo. Con una telefonata, nella nostra esperienza degli ultimi 2 anni, con le prime 2 telefonate la percentuale di persone si dimezza, arriviamo al 5. Poi bisogna lavorare un recupero crediti. Nel mondo bancario in genere si recupera la metà di quello che viene affidato all'avvocato. Noi cerchiamo di usare un principio di velocità e di efficienza. Quindi noi disdettiamo le pratiche dopo 3 rate non pagate e le mandiamo immediatamente al legale. È una prassi che ci dà un po' di vantaggio rispetto alle banche, che sono un pochino più lente, anche perché magari la pratica deve passare dalla succursale, arrivare in sede, andare all'ufficio legale. Da lì il processo passa immediatamente in mano a uno studio legale che è integrato, uno studio di Milano, che è specializzato in questa attività, quindi ha la società di recupero crediti, poi ha i legali che intervengono, seguono tutta una fase da telefonata un po' più determinata, della nostra telefonata che è di supporto al cliente, fino al recupero per persona, l'azione, il decreto ingiuntivo e così via. In realtà abbiamo cominciato da poco, perché tendenzialmente le persone le prime rate le pagano se le scegli bene. Quindi noi abbiamo 2 anni di storia e abbiamo una decina di pratiche affidate all'avvocato. No, diciamo che queste situazioni si possono verificare esattamente sulla base del principio che dicevamo prima: il mal di denti, la cura dei denti, cioè la spesa straordinaria che può far anche rimanere indietro una rata di un prestito chiesto su questa piattaforma, e quindi insomma le situazioni straordinarie. Sella, questo 10% che l'ascoltatore ci indicava che riguardava voi, mancati rimborsi, rimontano allora, a questa percentuale? Allora bisogna sempre diciamo definire bene, diciamo ci sono i pagamenti in ritardo e ci sono le perdite. Adesso noi credo che proprio alla fine di questo mese passeremo probabilmente circa l'1% dell'erogato a perdita, il resto rimane nel recupero credito. Allora devo dire onestamente sono che tassi diciamo fisiologici, sì, attesi. Noi ci aspettiamo un tasso di insolvenza medio di circa il 2,5% sui nostri erogati. Quindi, però devo dire anche che in questo periodo, onestamente, parlando proprio anche noi, facciamo delle telefonate iniziali per capire cosa succede, ci sono delle difficoltà obiettive delle persone a ripagare. E quindi si possono normalmente trovare degli accordi per negoziare, abbassare le rate, allungare le scadenze. Anche perché eccetera. Il recupero crediti questo fa, non è che il recupero crediti in genere questo mondo prende, va e come dire pignora una macchina, la casa e quant'altro. Prima di tutto si negozia e si cerca di riorganizzare la struttura del debito. Ma l'obiettivo di tutti è quello, quindi ci sono sicuramente dei ritardi. Questo da un lato, dall'altro va detto che il recupero crediti, soprattutto la parte giudiziale, è un'attività costosa. E quindi adesso che siamo ripartiti possiamo diciamo agire più incisivamente su questo fronte. Credo che, come dicevo, nella maggior parte dei casi si è trattato di problemi genuini nei quali gli italiani sono incorsi. La spesa straordinaria, la perdita del posto di lavoro da un momento all'altro, magari un reddito in meno che arriva in famiglia. Sono persone fisiche, quindi ci parliamo, gli telefoniamo, eccetera. Certo. Sono casi numericamente limitati e cerchiamo di risolverli. Lei Carozzi che aveva alzato la mano? Sì, volevo dire che noi possiamo non essere obiettivi, però Standard & Poor's dice che l'asset più serio che c'è in Italia sono le famiglie. Noi prestiamo soldi alle famiglie, e nei nostri 2 anni di brevissima storia, ma mi pare anche in Smarty, che a Zopa che ho seguito, in un momento di crisi il prestito a persone dimostra di essere una cosa anticiclica, cioè da noi può capitare che perdi, ma guardate un pochino cosa avete perso investendo in altre cose. Allora, diciamo che le famiglie italiane abbiano il tasso di risparmio privato più alto d'Europa e forse del mondo, è un dato riconosciuto, non scomodiamo le agenzie di rating, Carozzi, che lei lo sa che di reputazione stanno non tanto godendo in questo momento. Andiamo rapidamente a Ludovico da Milano, qui chiedo di essere telegrafico. Ludovico, buongiorno. Tutti i milanesi stamattina ci hanno chiamato, delle altre parti stanno festeggiando, vanno in piazza giustamente a portare corone d'alloro presso i monumenti. Ci dica. Sì, Ludovico, buongiorno, rapido, grazie. Io sono un inventore, ho 75 invenzioni sulle energie rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile. Io ho necessità di 75 invenzioni. Ho anche un brevetto già depositato nel 2000, che è una turbina marina. Comunque io ho bisogno di depositare dei brevetti. Perché ho partecipato al fondo SIDI di Lombarda che dà 150.000 euro senza garanzie per aprire una nuova attività altamente tecnologica. Quindi Ludovico, lei non ha il denaro per depositare questo brevetto perché le banche non glielo danno, giusto? Esatto. Devo sintetizzare. Esatto, e praticamente io non posso presentare della documentazione a Lombarda perché vogliono dei disegni del motore, ma il motore io, se non lo deposito il brevetto, Ludovico, purtroppo devo interrompere. Poi magari ci risentiamo in privato, ci scrive se vuole. Detto questo, allora Maurizio Sella, Zopa stavo dicendo, Smartica, lo può aiutare questo provetto Archimede Pitagorico di Milano senza prenderlo in giro? Perché insomma, complimenti in realtà alla fantasia, alla creatività e al coraggio anche di questo ragazzo. Ma, abbiamo dunque, pochissimi secondi. No, velocemente. Allora, il prestito è un prestito personale, quindi è non finalizzato, quindi noi valutiamo la storia creditizia della persona. Quindi se lui ha avuto un buon profilo può prendere. Va bene, fino a 15.000 euro. Carozzi, voi avete già finanziato un inventore nel passato? Sì, a noi ci è capitato. Il problema è se lui lavora, cioè lui dice io sto lavorando, sono in grado di pagare una rata e ho bisogno di qualcuno che mi dia dei soldi che io restituirò. Certo, però se lui attività. Nella vita fa solo se l'inventore, io faccio l'inventore non ho bisogno di debito, ho bisogno di venture capital, cioè ho bisogno di soldi che restituirò quando il progetto farà qualcosa ed è una differenza molto importante. Allora Ludovico ci scriva, girerò la sua domanda ai nostri amici di questa mattina. Noi andiamo l'ultima pillola del nostro percorso fatto con l'INPS per spiegare la riforma delle pensioni. Questa settimana abbiamo fatto la sintesi di alcuni punti cardine, oggi il funzionamento del sistema contributivo. Pensioni, le novità della riforma in collaborazione con INPS. La riforma a Montifornero prevede l'applicazione a tutti del nuovo metodo di calcolo contributivo basato sui contributi versati. Quali sono i fattori che in questo sistema influenzano e condizionano l'ammontare della pensione? Il metodo di calcolo contributivo si basa sui contributi versati, che vengono di anno in anno sommati e rivalutati sulla base della media quinquennale del PIL. Al momento del pensionamento, tutti i contributi versati e rivalutati vengono sommati. Questa somma, che si chiama montante, viene convertita in pensione utilizzando dei coefficienti di trasformazione, così definiti perché trasformano la somma in rendita, che variano in relazione all'età del pensionamento. I fattori che hanno un peso rilevante nel nuovo metodo di calcolo sono dunque l'ammontare dei contributi versati, l'età che si ha al momento del pensionamento e la crescita della ricchezza del paese. Più contributi si versano, più sarà consistente la pensione. Più è elevata l'età del pensionamento, più sarà elevata la pensione. Più cresce il PIL, migliore sarà la rivalutazione dei contributi. Per sapere tutto del prestito tra privati andate sul sito di Smartica con la K e sul sito di prestiamoci.it anche per smartica.it. Grazie a Maurizio Sella e Mariano Carozzi, a domani.